America, in the face of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. I'm David Plouffe, and I'm here at my publisher Viking, where I just handed in my book, The Audacity to Win, which is a story about the 2008 presidential campaign. We had a strategy in place. Insomma, è pur vero che in America, forse anche in Italia, un libro non si nega a nessuno, ma questo è un libro che ha ottime motivazioni per esistere, e quindi ve ne parliamo oggi, perché il venerdì, come ormai forse avrete capito, è il giorno che Buongiorno America si occupa soprattutto dei consumi culturali, di intrattenimento degli americani, che poi sono almeno in buona parte un po' gli stessi dei nostri, magari ancora con qualche sfalsamento di tempo, ma gli interessi spesso collimano, e i prodotti in questione anche. E questo è un libro che siamo curiosissimi di leggere, un libro scritto da David Plouffe, che ha solo 41 anni, ma ha già alle spalle, come dire, un alloro straordinario, più grande di una medaglia olimpica, perché è stato uno dei tre o quattro, forse dei due addirittura, principali personaggi che hanno silenziosamente, segretamente, ma con capacità straordinaria, guidata la campagna elettorale di Barack Obama fino al successo, andato in scena esattamente un anno or sono. E ora esce il libro che celebra tutto ciò, si chiama L'audacia di vincere, ma perfettamente in tema con il carattere di Plouffe. Non è un libro celebrativo, né di grandi teoremi teorici, né di grandi passionalità, ma è un libro di metodo, un libro di strategia, un libro su come si sia riusciti a raggiungere quel risultato, come dice Plouffe nelle sue parole che abbiamo ascoltato poco fa, senza abbandonare mai il piano principale, no? Una organizzazione che somiglia a quella delle grandi tecniche di marketing, ma espresso in questo libro, raccontandoci come loro vedevano le cose, il succedersi degli eventi, gli stessi eventi che noi leggevamo sulle pagine dei giornali, ma questa volta raccontate, riassunte, descritte dall'interno di quel piccolo ma formidabile team. Vi leggo giusto un paio di capoversi dal libro. Il libro, vi ricordo ancora, si chiama L'audacia di vincere, David Plouffe. Il capitoletto in questione è Agonia ed estasi, e dice: la storia sul reverendo Jeremiah Wright esplose in un mercoledì e il giorno dopo aveva già invaso il panorama della stampa nazionale. Decidemmo che Obama avrebbe accettato di rispondere alle domande sui sermoni del suo pastore, a cominciare dal venerdì, in una serie di lunghe interviste TV sui principali network. C'era una complicazione tutt'altro che da sottovalutare: lui aveva già accettato di confrontarsi con i rappresentanti di entrambi i quotidiani di Chicago proprio quello stesso giorno, 2 ore per ciascun giornale, rispondendo a qualsiasi domanda senza censure riguardo alle sue connessioni con l'immobiliarista Tony Redsco. Ma dal momento che Obama doveva parlare della questione Wright il più presto possibile, decidemmo che avrebbe concesso le interviste immediatamente dopo essersi confrontato con i redattori dei giornali. Perciò quello che si prospettava era una giornatina mica male, sul genere di vedersi amputare le mani la mattina e le gambe la sera. La domanda era: saremmo stati ancora vivi al calar delle tenebre? E non c'è show business come lo show business, dice uno dei tanti motti di Hollywood. E sepolto a fine giugno, Michael Jackson è già alla sua rentrée, naturalmente postuma. È uscito il film, sono usciti anche i dati di incasso relativi: 20,1 milioni di dollari in tutto il mondo, ma solo 7 e poco più in America, il resto altrove, confermando la sensazione che Michael sia e sia rimasto soprattutto un prodotto da esportazione. Il film resterà in circolazione, si chiama, vi ricordo, This Is It, è la cronaca di tutto ciò che avrebbe portato allo spettacolo, che poi non è mai nato perché purtroppo è morto Michael Jackson. Resterà in circolazione solo per un paio di settimane, salvo magari qualche prevedibile prolungamento. Il film è stato ben giudicato, gli incassi sono così così, ma fanno riflettere su una questione. L'object is to keep your balls on the table and knock everybody else's off. Questo Questo era quando se ne occupava Martin Scorsese nell'Ultimo Valzer, il film musicale dedicato al concerto finale della carriera della band. Un film che quindi risuona con quello su Michael Jackson, perché appartiene allo stesso genere o sottogenere, se volete, i film rock, i film di musica, i film attorno al mondo del pop. Ebbene, Variety, il grande quotidiano e anche settimanale, esce in due versioni, che si occupa di show business, di spettacolo, di Hollywood, si chiede se in questo momento di grande aridità di ideazioni per il cinema non sia il momento del ritorno dei film rock come Last Waltz, come appunto il film di Michael Jackson e come alcuni campioni in incasso che negli ultimi tempi hanno così scosso l'attenzione dei manager di Hollywood. Il film di Hannah Montana è arrivato a 65 milioni di dollari di incasso negli soli Stati Uniti, quello dei Jonas Brothers ne ha fatti 20, quello degli U2 in 3D ne ha fatti 11 con costi relativamente bassi, perché comunque erano spin-off di prodotti già preesistenti. È possibile che presto si veda tornare prepotentemente il rock sui grandi schermi, se non altrove. Direct your attention now to the microphone behind home plate and welcome 6-time Grammy Award winner John Legend. He will now sing our national anthem. E che volete, quando si va alla partita e vi vedete John Legend che scende sul prato, una partita non come tutte le altre, insomma, ma John Legend addirittura che scende sul prato e canta l'inno degli Stati Uniti d'America. Sono le World Series di baseball che sono cominciate un paio di giorni fa, due notti, due grandi squadre come i Phillies di Philadelphia e gli Yankees di New York. L'esito lo sapete, diciamo che dopo la prima stanno 1-0, la seconda c'è stata stanotte, ma non ve lo diciamo perché gli appassionati se la vogliono magari gustare nella differita televisiva. Solo un formidabile incasso dal punto di vista dello share, dell'audience, di pubblico. 20 milioni di americani si sono visti la partita. Fox ha incasellato un altro successo in un momento in cui la rete Murdoch va assai bene, perché ha l'esclusiva della trasmissione di queste finali. E poi, come dicevamo, a ciliegina della torta, John Legend che ha cantato l'inno, e sentite il crescendo finale con tanto di aerei, di squadriglia acrobatica, vale la pena. You there, oh say does that star spangled banner yet wave o'er the land of the free. The whole botti, gran botti che si mescolano nel cielo dello show business americano. Siamo passati da John Legend che su tutte le televisioni, su tante televisioni americane, canta l'inno per le finali di baseball che si prolungheranno tutta la settimana prossima, alle classifiche del box office del cinema americano. Trionfa in questo momento l'horror, nella seconda parte capiremo anche un po' meglio perché. Quanto ascoltiamo sotto? Anzi, ascoltiamo un attimo, via. È tratto da Saw numero 6, ovvero l'horror che è al secondo posto delle classifiche di incasso del cinema americano. Al primo posto c'è un altro horror che si chiama Paranormal Activity, poi segue il film di Where the Wild Things Are, di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, questa formidabile trasposizione di uno dei libri per bambini più letti nel mondo, e poi al quinto posto di nuovo un cartone animato di cui abbiamo parlato recentemente, Astro Boy, e poi arriva Michael Jackson, quindi totale disimpegno nelle classifiche di incassi cinematografici, un disimpegno che per fortuna è parzialmente smentito dalle classifiche di vendita della saggistica americana, dove si trovano libri un po' più seri come il nuovo libro di Malcolm Gladwell, autore Pliers, sesto nelle vendite, o quello di Richard Dawkins, chiamato il più grande spettacolo sulla Terra. Ma anche qui molto scandalismo. Vi abbiamo parlato di libri di predicatori, di libri di predicatori televisivi come Glenn Beck, e adesso arriva nelle classifiche di vendita editoriali anche il libro inevitabile del pilota eroe Chesley Sullenberger, quello che è riuscito a atterrare nell'Hudson ed è atterrato anche al terzo posto delle classifiche di vendita dei libri. Classifiche invece discografiche, anche qui la qualità difetta un po' in questo momento nelle charts americane. Al terzo posto c'è l'inevitabile Michael Bublé, Crazy Love, non ci viene a dire altro che inevitabile. Al secondo posto un veterano del country un po' più retrivo della scena americana, Tim McGraw con Southern Voice. Al primo posto una colonna sonora, anche qui l'unica parola che mi viene è inevitabile, è il secondo capitolo di Twilight. White demon, love song down the hall. White demon, shadow on the road. Back up your mind, there is a call. He hears it coming after all. Of this time, she likes the way he sings. White demon, love songs in her dream. White demon, where's your selfish kiss? White demon, sorrow will arrange. Let's not forget about the fear. Black invitation to a place. Buongiorno America. High def camera on. Ecco, questa musica, il tono di questa voce vi fa capire che è ora che abbiate paura, perché inevitabilmente vi devo dire una parolina chiave: Halloween. Arriva Halloween, e se purtroppo siete così sfortunati o poco popolari che nessuno vi ha invitato a una festa, almeno declinate questo discorso in chiave americana, insomma, se non li hanno invitati a una festa non gli resta che fare una cosa la notte di Halloween: andare al cinema a vedere un film de paura. Per questo motivo, come vi raccontavo poco fa, in questo momento i cinema americani sono pieni di film de paura, e quello in questione che state ascoltando in sottofondo con i botti relativi è del genere telecamerine, no? Dal Blair Witch Project in poi, no? Il grande filone della paura che ti entra dentro nonostante tu non abbia aperto quella porta. La porta si è aperta da sola e ti è venuta addosso. Il film si chiama Paranormal Activity, è uno dei film più presenti nei cinema, anche delle grandi città, naturalmente nei cineplex, nei multisala, vanno tutti in fila a vederlo e avranno paura tutti insieme la notte di Halloween. Ma ci sono fior di articoli che dicono che ci sono anche altre alternative, altre scelte possibili. È in uscita per il weekend un film che si chiama The House of the Devil, la casa del diavolo, che è un po' tutto un programma. Ci sono naturalmente le consuete riedizioni del Texas Chainsaw Massacre, insomma uno dei film che ha fatto la storia della paura. Theater of Blood è presente al Film Forum, il cineforum più fighetto di New York, con Vincent Price, la star per antonomasia. C'è Cat People, che ben conosciamo anche dalle nostre parti, c'è il famoso remake con Natasha Kinski. Però la chicca delle chicche per i cinematografari, per i cinefil, per quelli che amano il cinema molto cult, è un nome su cui abbiamo dovuto condurre immediatamente una indagine, perché ci ha assai incuriosito ed è consigliato ad esempio dal molto rispettabile settimanale New York, il magazine che dà il tono in città. Si chiama ZAAT, Z-A-A-T, che è una formula. Adesso capirete di che cosa. One of the most incredible stories of modern time. ZAAT, Invasion of the Walking catfish. Ecco, detto questo, sarebbe detto tutto, potremmo anche chiudere il programma, perché la giornata, a nostro parere, ce la siamo guadagnata. È l'invasione del pesce gatto ambulante, un film che è uscito più volte con molti titoli diversi, ve ne elenco solo qualcuno: The Blood Waters of Dr. Z, le acque sanguinarie piene di sangue del Dottor Z, oppure Hydra, la Hydra, oppure più semplicemente Zat, col quale continua a circolare, ed è la storia. Magnifico che qualcuno ancora fa scrive la storia di uno scienziato nazista pazzo che si chiama Kurt Leopold e del suo laboratorio dove lavora da solo da 20 anni, e alla fine riesce a coronare il suo sogno, ovvero inventa il pesce gatto ambulante dotato di una cattiveria straordinaria che comincia naturalmente a vagare per la città e a mangiarsi gli americani. Allora, la notte di Halloween, se non c'è la fidanzata, se non c'è la festa, se non c'è scherzetto o dolcetto, allora arriva Zat. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, scaramouche. Però siamo arrivati fino a qua, siamo arrivati fino a qua, e vogliamo a questo punto bere fino in fondo l'amaro calice, e ci siamo sorbettati, e quindi le riproponiamo prontamente anche le innumerevoli gallerie di possibili idee per maschere di Halloween. Ne avete poche, siete d'accordo di idee? Eccole qua, ve le allunghiamo noi. Per esempio, potreste vestirvi come i due signori in sottofondo, i due eroi di Wayne's World, ve lo ricordate? Il film con Mike Myers, i due più dementi d'America. Insomma, potreste vestirvi, e adesso sfogliamoci, dispiace, dobbiamo solo raccontarvele, ma insomma, poi sull'idea potete costruire voi lo spunto. Potreste vestirvi come Leela, una delle eroine di Futurama. C'è una coppia che è presente nella galleria di Entertainment Weekly, una coppia, due giovani fidanzati che hanno pensato bene di mescolare un po' le storie. Lui si è vestito come un non meglio precisato Dr. Horrible, in pratica si è vestito come lo scienziato nazista pazzo di qui sopra. Lei invece si è vestita come Ursula, che ho scoperto essere la cattiva della Sirenetta, la polipa cattiva. Vi potreste vestire come uno dei pedofili più noti della Hollywood contemporanea, Pee-wee Herman. Avete presente quello che faceva programmi per bambini e è finito molto male? C'è un signore che si veste come Milhouse. Milhouse è uno dei personaggi più marginali e di minore successo della saga dei Simpson, e lui si veste come Milhouse proprio per questo, perché tutti gli altri si vestono come Bart. Potreste vestirvi con pochi soldi, in realtà 4 avanzi pescati nell'immondizia, come Wally, un altro che passa le sue belle avventure per coronare il suo sogno d'amore con Eve, e la vostra compagna potrebbe vestirsi come Eve. Questa ci piace molto. Potreste vestirvi come due eroi, questi sì, due eroi veri, non eroi negativi, questi sono due eroi positivi del cinema americano, nella fattispecie sono Jai e Silent Bob, sono i due personaggi che non parlano mai nei film di Kevin Smith, no? I film così anni 90, che hanno raccontato la gioventù americana negli anni 90, film come Clerks, come Mallrats. È molto facile, basta avere insomma una grande barba, delle grandi palandrane, poco altro. Potreste vestirvi, soprattutto se siete ben in carne, come Tracy Turnblade, l'eroina di Hairspray, o potreste vestirvi semplicemente come due scatoloni di cartone, come Sponge Squarepants, che i vostri bambini, se non lo sapete voi, sanno benissimo chi è un eroe dei nuovi cartoni. Oppure, per concludere, potreste vestirvi come questi due disgraziati, e questa è cronaca americana di adesso, che hanno provato a fare una rapina nello Iowa, e nella casa di un signore, e anche loro si sono mascherati. Sapete come si sono mascherati? Hanno preso un pennarello nero e si sono dipinti un po' la faccia di nero, no? Si sono fatti la mascherina nera col pennarello, e poi hanno provato a entrare in casa di questo signore e sono stati giustamente arrestati. Ora ci sono le foto segnaletiche di Matthew e Joy, e fanno pena, devo dire, con le loro facce. I poliziotti nel fotografare mica gliel'hanno tolto il pennarello. Comunque sia, buon Halloween da Buongiorno America. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Gloria Guerrera, in regia Roma Valerio Rocchetti, a Milano Carmelo Lauricella. Raccontateci via mail il vostro Halloween, Buongiorno America, @radio24.it, o sulla pagina Facebook, redazione Jefferson 3, replica a poco dopo mezzanotte. Ci sentiamo lunedì dopo l'1:30 qui su Radio 24. Buon weekend a tutti.